esattamente quello che ho detto poco fa, detto, se ogni sera sono dritta così, sono l'uomo più felice del mondo, allora entro con piacere. Bruno, mi stai facendo lo smitter, eh? E che stessi? Lo sto facendo lo smitter, non dire balle. Tanto, boh, sei 960 in oggi. E tu perché sei venuto con casa, scusa, eh? Ma perché tu voglio mettere la portante. Ah, ti innanzi dai occhi. Dimmi la verità, come sto uscendo? Ma sto uscendo bene, tranquillo, là, non c'è problema. Però sono a casa oggi, non sono in macchina, vabbè. Ciao Gianni. Ciao Bruno, ciao. Dai, io faccio corretti, ci sentiamo, dai, vado giù a portare il cane, si stanno aumentando. Lo porto giù adesso, là. Magari poi se ci siete, vieni. Dopo, cioè, porta il telefonino Gianni, così dopo ti chiamo. Yeah. Oh, riprendo io così mettiamo un po' di ordine, se no non si comprende nulla. Facciamo entrare Claudio da Muro su, così lo saluto. Avanti Claudio, e poi Carlino. Ciao Claudio, ben sentito. Arriviamo a Moletta qua. Spero che anch'io come radio ho migliorato al 100%. Dimmi un po' Claudio, puoi ci girare. Scusate il telefono, attimino, riprendete voi, ma la carina fate riprendere. Attento Claudio, Uros, ascolti qua California. Ciao Carlo di Uno, Sestica, California, qua, cambio. Mappati positivo, è posizione NBM, sono, dai. Volevo sapere se stava arrivando a Muros lì. Che senti anche a me. E quindi va bene, dai, diciamo che per essere in macchina arrivo anche a Muros, vuol dire che va bene. Sì, non negativo, io sono a Sierra Sierra, sono a Sassari. Se hai cambiato il segnale nei tuoi confronti lì a Muros. Vai Claudio. Chi è che trovi 10? Claudio, guarda se hai cambiato. Solo. Scusa, ma allora così quando ti arrivo? In questa posizione. Vabbè, comunque la radio è meglio questa qua, dai, così. Cappa, Claudio, mi senti pure a me in QTH di Muros? Ho fatto delle modifiche per finalmente arrivare a Muro. Carlo. Dimmi Tony. Ma sempre silenzioso, sì. Parla un po' tu. Sono in ascolto qua e che avevo il computer acceso, quindi vi stavo ascoltando. Era super affollato, adesso ne approfitto che sto parlando. Saluto Claudio che è entrato da poco fa e ancora non avevo avuto possibilità di salutarlo. Prima era entrato Bruno, lo stesso che non l'ho salutato. Buonasera a todos. Riprendi Claudio da quel di Muro. Super fatto quel link che mi hai mandato e appena ho qualche attimo di tempo, perché stavo mettendo ordine nel computer, poi stavo facendo anche un lavoretto per Luca e ho quasi terminato, appena mi libero sicuramente la farò perché è interessante. Facciamo l'ordine perché mi hanno fatto una telefonata, non ho preso il conto. Allora c'era, quando c'ero io c'era Gavino, facciamo venire avanti se c'è ancora, così poi procediamo con gli altri. Gavino, avanti. Aspetta un attimo, Tori è andato un attimino via. Hai visto a che muro sono arrivo adesso, come quando abitavo nell'altra casa. Capa, allora ho detto Gavino c'è ancora, non c'è, Bruno c'è ancora. Anche qua arriva bene. Cavolo, tu sei fortissimo. Sei a fondo scala qua. Ma dove sei? Arrivi forte, arrivi un bel forte. Ieri avevo il microfono che non funzionava, sono entrato, ho cercato di chiamare ieri sera, ho sentito qualcuno che diceva a me lei ha portato il telefono, forse ero io che cercavo di chiamare, poi abbiamo cambiato il microfono e volevo farci no, ma poi un attimo che ci sta chiamando Muros, avanti. No, non l'ha chiamato Muros. Ronaldo a Carlo, ma hai aumentato qualcosa Carlo? Sì, adesso sono con 8. Adesso sei 9,60, da 9,50 sei passato a 60. Muros, Claudio, ti volevo dire, come ha detto bene Bruno, la modulazione non è buona, cioè è gracchiante, è un po' sporca, dai. Di nuovo a te Claudio. Se parli così, ma così un microfono a palmo o da tavolo? Devi fare così, non devi alzare troppo la voce, se no gratti, gracchia la voce. Se la mano è così, un po' distante, se lo metti troppo vicino e distorce. E non era pulita la modulazione, adesso ti ascolto bene, come dovrebbe essere. C'era anche Natalino, l'abbiamo abbandonato. Vai Natale. Un attimo, sto facendo corso. Ok, chi è l'altro che vuol parlare, che ha parlato sopra Natalino? Avanti. Franco ci sei ancora, Davino ci sei ancora, tutti fuggiti. Claudio, Gianni è andato a coso a portare il cane, è rimasto Carlo e Bucco, non credo nessun altro, Bruno l'abbiamo nominato, c'era quello di giù di Platamona, Giovanni ci sei ancora? Sono io. Non ho capito, cosa hai detto? Ma con me ce l'hai? No, non ti ho detto, c'era Giovanni da Platamona, e ho sentito qualcuno che ha risposto, però non ho capito cosa ha detto. Ho detto, ci sono anche io, ci sono, vabbè. Sì, sì, no, te già ti ho sentito, no, di quegli altri che erano in parcheggio, che non abbiamo più nominati. Ok, e ti tocca, Carlo, avanti a te, dai, e poi Muros. C'era anche Gavino, che tu hai rilanciato Roberto, però poi non l'ho più sentito, vediamo se è ancora in ascolto. Gavino, ci senti? Vieni avanti. Niente, vai tu, Antu. Capisco perché non arrivava Gavino. Gavino sta arrivando off, probabilmente sta usando una tela diversa, una radio più bassa, più di potenza inferiore, non lo so. Comunque io l'ascoltavo basso di radio, però il segnale era nuovo, era buono. Ok, avanti a te Claudio Lavuros. Quando ci senti entra pure, stasera eravamo a un certo punto almeno forse più di 10, c'era Natalino poi che non ho più sentito, e va bene, Luca sta facendo cose col computer, e Gianni è uscito col cane, vediamo se ha ripreso Tonino. Ecco, buonasera. Avanti Gavino, adesso ti ascoltano probabilmente anche loro. Buonasera a tutti, mi stavo ascoltando, sono entrato circa mezz'ora fa e niente, mi stavo ascoltando. No, stavo facendo delle prove, Roberto, stavo facendo delle prove di trasmissione con una radio, bassissimi vati, per avere dei picchi positivi ottimali. Buonasera a tutti di nuovo, riprendo Roberto. Ciao, ma che radio è questa, Gavino? Questo qua è un CD, è un supercar con bassissimi watt di pilotaggio. Chiediamo, vediamo se Claudio Muro si ascolta. Avanti Claudio, che sei più lontano. Sì, buonasera, sì, salutiamo positivo, buonasera Claudio. Cioè Roberto, sto uscendo con 1,5 watt, con 1 watt quasi 9 modulati, picchi di assorbimento 5 ampere, allucinante il ferrato. No, sta andando bene, e se no qua il segnale, la modulazione è buona, un po' leggermente carente di acuti, ma ti ascolto bene, dai, non ho problemi. Vediamo se Tonino è rientrato, nulla. Bruno? Natalino ha visto il segnale della mia antenna oggi, è stato un tasto e si è curato. Avanti Tori! Attenzione, binario 10, passi dalla linea gialla. Ma chi è questo che mette ogni tanto la pulsante a fondo scala qui? Ciao Giulio! Ciao, ciao a tutti! No, io qui registro una pulsante a fondo scala, di intanto in tanto. A me non arriva nessuno a fondo scala. Tori, se passate la tua segnale, ciao Giulio! Ciao Bruno! Vabbè, comunque, vogliamo che ti dica. Così è, vabbè, comunque. Bravo, portantista! Ah no, non ci dà fastidio il portantista, mi elimina quel REM. Niente, fondo scala qua che mi può arrivare Gianni, poi Franco, Bruno, chi mi può arrivare? Poche persone. Papà, io vado a mangiare. Ciao, ci sentiamo, ciao Giulio, buonasera. Ciao Antonio, ciao a tutti, ciao a Nino, poi chi c'era? Luca, mi sembra di aver sentito. Perché io ho tentato di entrare da poco, cioè ho tentato. Stavo aspettando che finisse tutto il marasma che c'era per entrare almeno a salutare, ma comunque ormai c'è fatto tardi e devo lasciare, dai. Vabbè, comunque io vi saluto tutti sicuramente. Alle prossime, riprendi Tonini. Io ascolto il finalino e poi chiudo. Mi sono portate, comunque, adesso va poco, dai. Ciao comunque Giulio, stammi bene, salutoni. Ciao anche Antonio che sta andando a fare il caricabatteria. sotto a chi tocca. Prendo io che saluto a Giulio, purtroppo Giulio anche a te ti schiacciavano, schiaccia anche a cosa, a Tonino, segnale 9+30 da me, ok, non so che divertimento si prendano, vabbè, comunque c'è gente che si diverte così, non cambia nulla dalla parte mia, quando mi stufo spengo tutto. Saluto a Antonio che è andato a mangiare, anche io tra poco vado, che è quasi pronto, a Giulio se ti vuoi trattenere non c'è problema, oggi c'è una bella compagnia, siamo superati forse anche i 10 radioascoltatori oggi. Ok, c'è anche Muros che è in parcheggio, facciamo passaggi più brevi, Claudio, se magari qualcuno se ne va e perdiamo il conto di quelli che sono rimasti. Vai Claudio che poi passerà il mic a cosa? A Tonino, che Tonino passerà a Gabino. Avanti Claudio. Dovrei arrivarti leggermente un po' di più adesso, perché a me l'importante non mi fa niente, ripeto, non me ne frega niente. Poi io le persone che devo parlare le chiamo al telefono e dell'importanza non me ne frega proprio niente, non vado a consumare correnti per certe persone, meglio dice muto che c'è domani che bastone, ma servi a luce. Comunque non mi interessa, facci quello che vuole, a me non me ne frega niente l'importante. Ok, bene bene, chi è rimasto? Poi non ci capita più niente, guarda, a parte te Claudio, poi c'è Carlo, Carlo avanti. Sì, grazie Tonino, io adesso chiudo perché serata di faene, devo andare a prendere la faene. Comunque poi rilancio Gavino che saluto e niente, ciao Antonio, ciao Giulio e tutti gli altri, dai, non se la prendano quelli che non ho nominato perché siamo in tanti stasera, ciao Claudio, Roberto, Luca, Gianni eccetera, dai, purtroppo devo uscire che si sta facendo tardi perché devo andare a prendere la faine. Ascolto il finale di Roberto e poi me ne passo in QRX. Sì, riprendo io, grazie del mic. Caro, no, mi hai sentito, è stata una piacevole serata, diciamo, per questa mezz'oretta, 3-4 ore che ci siamo sentiti. Diciamo, bella compagnia, tanta gente, come veramente si vede, speriamo che si ripopoli. Io non è che vengo spesso qua, però qualche volta fa piacere risentire gli amici, è sempre interessante magari fare anche discussioni. O mi dispiace che qualche volta qualcuno si diverte a dar fastidio, però prendiamo anche quello, dai. Ok, ti saluto, buon tutto, buona fine, ne auguro anche io, forse, vabbè domani no, ma dopo domani o qualche giorno dopo me la compro anche io, che ne ho desiderio, dai, avanti a chi tocca, Tonino per Carlo. E cazzo, vabbè, comunque, buon curic sempre, io lo stesso non è che sta morto, perché io mi devo preparare stesso un po' il caricabatterie, mi devo preparare, quindi, dai, già che ci sono in ruota, vi saluto cordialmente a tutti quanti, statemi bene, ciao Roberto, ciao Claudio, ciao Carlo, chi c'è ancora? Non lo so, siete che salutati. QRT da parte mia, statemi bene, sotto che tocca, ciao a tutti. Ciao Tony, sentiamo. Quando ci sentiamo la prossima volta ti chiedo una cosa, perché ho comprato da Carlo il RG-18 per non essere da posare, perché non stanno insieme. Se dovevo domani portare da posto trovare lo scarlo, un po' di giorni di quello di RG-18 che hanno il RG. Ciao, ciao. Ascolta, se te ne servono non molti metri te lo posso regalare io, che è meglio del RG-18. Se mi dicono una schiacciata, sentate, adesso mi sto guardando, io vado da qua pure. E poi devo fare il campo di una quarantena nella macchina perché stamattina abbiamo fatto tanto, perché sto caso non è voluto usare, non è giusto, non ce l'ho sentito, ma non per guardare. Ma già ci sentiamo, non è un giusto, grazie. Comunque, a chi conosci qua che c'ha il mio numero e te lo fa dire a loro, te lo dà, non c'è problema, ok? Veramente, il mio cavo è grigio comunque, non mi ricordo come si chiama, comunque è ultimo cavo, ce l'ho io nell'antenna, è perfetto. Oh, Tony! Eia! Il PC si sta sistemando, dai! Oh, da te è difettosa! Mi sembra che il tasto 1, cioè il numero, cioè la I non funziona, poi qualche altra lettera buffa. Sì, vabbè, dai, se ti serve per guardare le cose va bene, dai, però un po' di sistema lo metto. Dai, passo, dimmi tu domani a ritirarlo. Adesso devo installarti l'antivirus, devi fare gli aggiornamenti, non so se finisce, la faccio domani, poi segnatelo, boh. Vabbè, quando ce la fai non è in fretta. Godzilla, Mozilla, fai quello che vuoi, capito? No, mettiamo Google Chrome, cosa cazzo Mozilla? e dicono che il migliore è Mozilla. Era detto. Così ho sentito, non so. Da tempo fa però, capito Luca? Luca, vabbè, sei un mago, dai, sei bravo. Me lo dici tu, mi chiami e mando un messaggio quando vuoi posso venire a ritirarlo. Fredda non ne ho, se domani, dopodomani, quando vuoi, non c'è problema. Prima non connetteva internet, giusto? Cosa? Ho detto che prima non connetteva internet. No, non ce la facevano neanche entrare, nulla. Si è connesso. Buono. Io certo non ce l'ho uscito neanche un'altra persona, quindi automaticamente vabbè, quella persona ne sa più o meno qualche virgola in più di me, non di più, capito? Quindi l'ho provato a te perché sono andato a colpo sicuro. Ognuno da te sua, sono due giorni che faccio computer, sono qualche anno. Certo che molte volte è capitato, sono sincero, che ho avuto un problema e mi hanno dato una dritta, ma io in anni che li faccio non ho avuto un problema simile di quello che mi hanno detto, infatti era quello il problema. Vabbè, comunque da. C'è di imparare, ce n'è sempre da imparare, sempre, sempre, sempre. Il capo non si finisce mai, si sa, anche il campo mio lo stesso, è molto vasto, non finisce mai, c'è sempre novità. D'accordo, dai, chiudo che mi preparo qualcosa. Quando sei disponibile, Luca, io fretta non ne ho, mi mando un messaggio, tu se mi dici anche stavolta mezzanotte, io vengo mezzanotte, per dirti, ok, comunque domani, dopodomani, quando vuoi tu sei disponibile, mattina e sera non c'è problema, tu mi mando un messaggio, ok Luca? Forse dovrei avere qualcosa di tassi. Solo controllare, se ce l'ho io già ti faccio sapere, sono andato a comprare, ma costava 20 di euro. Ehi, vabbè, se ce l'avete, però tutti pagate, non c'è problema, dai. Cavarocci, va bene, ok. Ok, d'accordo, chiudo, confermo il mio QRT, ciao a tutti. Riprendo io, così saluto a tutti quanti, ciao Tonino, ciao Luca e tutti quelli che sono all'ascolto, Antonio forse è andato via, Bruno, Galvino, c'era Claudio Di Muro, l'abbiamo lasciato in parcheggio, a me mi hanno chiamato per mangiare, saluto a tutti, grazie della compagnia, spero di sentirvi presto, numerosi come oggi, ciao ciao a tutti, QRT. Ciao a tutti allora, più tardi se ci siete, sono la prossima, ciao ciao. Ho detto, ma l'impianto per la macchina devi fare. Avevo comprato un'antenna calamentata, quella non è turbo da usare. Mi ha fatto dare da un metro di tavola, e lui aveva detto che cavolo sentire che non serve a niente. L'ho piazzato, e se l'ho fatto lavorare per il piede, ecco che l'ho piazzato, ma una cosa, cioè, il sentire non serve. Ho scelto che andavo a buttare un po' più importante, niente da fare. E ho visto che un amico stamattina, con cosa che trattano, ha un cavo lui, è un cavo di dritto, che non è perso, non si chiama, ma non lo ricordo, ma usare un reale quello lì. Ce l'ho io grigio buono. Ripeto, se per essere 4, 5, 6 metri ce l'ho, capito, 7, 8, non lo so. Però mio volentieri, non c'è problema. Un paio di metri per la macchina, quindi l'antenna calamentata, quando non c'è la macchina, certo con l'antenna, se danno non so quanto vuole il minimo, 2,75 una volta, poi sai io mai, e questo tutte le cose, non mi ricordo più niente di lunghezza, di attacco, ma prima c'era la 2,75 penso. Per la macchina, poi dalle spade, cosa ne funziona, non si deve sentire, va. Cappa, non c'è problema, dai. Ok, Meremeda, si fa il numero anche voi, non c'è problema, ce l'ho così tutti nel numero mio. Ok Bruno, dai, ci sentiamo, 2 metri, non sono niente, 2, 3 metri, 4 metri, troppo, non c'è problema. Ok, ciao Bruno, ci sentiamo. Ok, ciao, ciao a tutti, ci sentiamo la prossima. Chi è? Ciao, il tuo computer fra, guarda, Tottonino. Dove vado io? Cos'è? L'HP? Come se ci stiamo parlando, forse funziona, però la tastiera non funziona. Ma glielo ho detto che non funzionava, io non lo stavo usando perché c'aveva problemi di tastiera. Comunque ci stiamo parlando per la posta adesso, forse iniziano gli aggiornamenti. E poi metto Windows, ma... E poi per la tastiera non c'era buon esterno, ma quello cosa funziona. senza un mouse. I tastini del mouse, il data chip non funziona. Ma li conviene prendere su una tastiera di quelle, queste tastiere portatili a USB. Sì, ma se sta difettando. Ma c'è 40 anni fa. Ha fatto la guarda da 15 di zoo del suo computer. Sì, ma infatti, io quello che c'ha Lucio vuole a quello. E invece quel nonno, bro, perché se ne pensa è un Celeron. Celeron, no, ce l'ho Celeron. Windows Vista. Questo va minimo, ti cobale lui, ma secondo me è più di 20 anni. Sì, no, 20 anni buoni ce li ha. E metto dalla macchina ogni bombetta. Fra, c'ho la tastiera, ma non va bene. È uguale, si vede, ma questa qua è di quelle picche, la mia è di quelle basse, quei tasti bassi, ma ci vuole lì la tua, quei piccini e quei tasti alti, non va bene. Ma tanto l'ho vista su internet, costa una cazzata. Oh, funziona, ho voglia. Stavo contando poco fa, intorno ai 22 euro costa. Ma gli conviene cambiarla la tastiera. Adesso vediamo, se gli conviene a lui, Pepettiero conviene cambiarla la tastiera, capito? È vecchio, però già funzionano, sono dei mulisti. Quale luce è sempre funzionando? Allora. Vediamo un po'. Compact. Presario Compact. Cos'è questa? Sì. Vabbè, anche per 5. Costa 18 euro costa. Infatti. Comunque funziona, è un po' lento perché l'hard disk non è che sia un granché. No, adesso non è lento. Però ho messo il sistema operativo più veloce adesso. E già non messo il computer. E bisogna cambiare la batteria a tampone anche, c'è la batteria a scarica. E la batteria non serve, non c'è niente. No, quel computer me l'aveva regalato Laura, la figlia di Lucia, capito? Ma dico, questo computer c'ha anche la batteria a tampone. Come si dice? Ma è da cambiare. Sì, vabbè. La tastiera sì, non scrive la R mi pare o la Z, non mi ricordo perché sono da molto che non lo usavo io. Ah, non fa né la Q, né la W, né la E, né la R, né la T, anzi la T sì. La T, la Y non funziona, la U non va, la I non va, la O non va, la P non va, la E, la E sì, la A sì, la S sì, la B sì, F, G, H, I, la G sì, K, L, Z, X, V, B, N, M, non va, Q, W, E, R, T, anzi ho quattro tasti, non va, non mi sembra ancora la I funziona, la I, la O, la U, non vanno. La tastiera ci vuole, ma io gli avevo detto ci voleva la tastiera, non è per aggiudizio, l'ho avuto, dammelo, rabbo, figa Dio. Vabbè, se no vado ai cinesi e comprano quelle tastiere piccoline e va bene lo stesso, attaccare un virus e trucare per là. Sì, ma faccio sempre una di quelle dei cinesi piccoline, poi ce l'avevo comprata. Sicura, no, comunque già fatta. Deve cambiare la batteria a tampone anche. E fai fra, da cosellata con una 60 euro lo sistema. Ma infatti. E come era ordinare la tastiera sua? Chiama di positivo, non c'è Lucia fra. No, Lucia rientra domani che era pure andata dalla figlia perché non stava bene. Praticamente è partita il mercoledì e rientra domani, mercoledì, una settimana è rimasta giù, e ha fatto i biglietti. Domani risa, e due mesi devo andare a prenderla a Fertilia. È fuori la figlia. Sì, ma io non ci sono salito perché dovevo fare cosa, volevo fare il biglietto la verità e non avevo voglia di salire perché c'era qualcuna cosa da finire, se no era un casino, capito? Se non si può. Prima il lavoro e poi il dovere, capito? Siccome c'era il lavoro in sospeso e quindi me l'ho finiti, adesso sono a posto. Va tu, eh? Beh, cosa vai, io. Bene, mi ascoltavi dalla macchina, Luca. La carolata. E adesso sto utilizzando il Tanner più 3 da tavolo. Bene, sta uscendo come radio questo. La Puglia. Va bene, no? Gabba. 6009. E non dov'è? È la Puglia, è una bombetta. E sto uscendo al minimo di watt. Anche perché cosa lo metto a fare, no? Bah. Infatti nulla. No, ma va bene, sono proprio contento di questo apparecchio perché funziona proprio bene, poi c'ha le bande, ta, 6 bande. Va bene. E gli ho adattato questo Tanner Q3, la batteria mezzo scarica anche in questo tunnel. Ah, c'era? C'è ancora che mezzo scarica, devo cambiare. Ma sto facendo bene, alla grande. Allora, adesso lo provo che c'è Luca a vedere come sta uscendo. Vabbè, sto parlando distante. Alla grande, fra. Questo non lo va nessuno. Dico me lo tengo. Finito. Basta, non fa proprio niente. Fate Luca. Se non c'è una parete che funziona bene, già ti rifai sul palazzo da razzino. Ma infatti, non te ne fai proprio nulla. Gennaio. 3 gennaio, oggi ne abbiamo. Basta. Ah, 31 oggi. Si sposta la data. Oggi è 31 e domani è 1 di febbraio. Papagene. Poi c'è Luca. Non è che conosci qualcuno, sta prendendo qualche rosmetro. Mi servi un rosmetro per la macchina, dai. Per accordare un'antenna. E quello che c'ho me ne sceso in terra stasera e si è rotto lo strumento. Io c'ho la capi, no la capi, c'ho il ma quello bello, funziona benissimo quello. Uno di quelli che come a comprare, l'ho pagato, se non mi sbaglio, quelli di 100 euro l'ho pagato. Sei uno di quelli che prendo, un Daimon. Faccio per cosa c'hai, il 100 o il 200? Non c'è la 200 SX, affetto. Un nuovo, mi è fiammato. Vabbè, l'ho preso una negozia. Faccio 200 SX, una bombetta quello che ho, va bene, perfetto. E la cuccia adesso, lascia a posto, vedi, adesso mi apre anche YouTube, vedi, perfetto, adesso bisogna, adesso do un'occhiata su internet, per vedere che tipo di batteria tampone monta questo computer. Stavo dicendo, cosa costa quello lì? Un centinaio di euro? Sì, vado su internet, non so, secondo me è ho visto i trasmetri con la ZG, per carità, non so come niente, sono dei binoncini. Infatti. Aspetta, vabbè non me ne posso niente, io ho l'FMG che fa anche da Rosa, cosa me ne posso? Lo posso mettere professionale. No, non mi serve, adesso mi stavo dimenticando. Che c'è l'accordatore delle cose, delle famiglie. Tutti sono gli anni vanno, lì c'è perfetto. Ciao, certo. Hai un... così sotto, fra. Cosa? Che c'è portante, non parlare. Se sono con le tutte. E c'è un rumore tipo... scusimi. Forse sta rientrando nelle cuffie, aspetta un secondo. Guarda un po' adesso se lo sta facendo, 1, 2, 3. Che c'è portante? Poco. Aspetta che l'abbasso, forse è troppo alto. Così va meglio, dai. Un po' alto, poi c'è anche il micchio un po' alto. Sono a uno mio appena, se lo sollevo stacca tutto. Sono dei miei microfoni questi, Lucarie, capito? Altro che ZG, poi. Se avessimo lo da, aspetta un attimo, fra. Non mi ricordo che cacchio era. Hai fai mi bambù la tuta combattimento. Positivo. Trovi meno di 300 euro. Sì. Se ti basta, se no anche, ce ne sono anche da 1.200, 3.000, 2.000, dipende. Dipende sempre quello che compri, capito? Ma dite, un tipo più uno più scarso, 300 euro lo paghi. Però vuoi che ti dica? E tu come ti sei preso fra? No, a me me l'hanno prestato, non l'ho comprato. Me l'ha prestato un amico provvisorio, poi lo uso quando è, glielo ridò. Allora, questo mese è già cominciato, 200 di sotto l'assicurazione, un altro 80 di revisione, un altro 90 di UCI, un altro 70 di EVA, cioè vedi tu, è un'altra, l'altra quant'era, allora 48 euro di SL. Ma lo so. Fai una cuccia adesso, va. Non bastano mai, no, Luca. Ui, per carità. Oh, non bastano mai, no. Ui, lascia perdere. Io già quello dentista a pagarmi. Adesso devo andare da un altro, perché questo qua, dove sto andando, no, non mi garba più. Il lavoro che mi ha fatto non mi piace. Poi ci vediamo un po'. Vedo un po' cosa vuole fare questo qua. Gli ho mandato già le foto del lavoro che ho fatto. Aspetto una chiamata, solo che è ancora a San Sperate, vicino a Cagliari. E ho capito quale. Sì, ci è andata praticamente la sorella di Lucia, gli sta facendo tutto il piatto fisso. Non so quanto sta pagando, però dice che è un bel bravo. Allora, c'è la promozione, ha messo il coso su Facebook, 4.200 ad arcata, praticamente con 8.400 ti fai le arcate fisse. E ho capito, dove sta andando la sorella di Lucia? Ed è, c'ha un bel di lavoro e mi hanno detto che è un bel bravo quel tipo lì, capito? Vabbè, io già, grazie a Dio, già mangio bene, sono, però non, c'è qualche ritocco ancora. Sì, vabbè, fino a quando non ti fa l'assestamento te le regola bene, ti ritarda, capito? Tutto lì. Ma il problema non è l'assestamento, il problema è che troppo in pressa mi fa. Lo so. Vabbè. No, io problemi non ne ho, io va bene, amici miei, il lavoro che mi hanno fatto a me, alla grande. Ma ti impianti hai? Ma li ho fatti tutti i fissi, Luca, capito? Ma me l'ho fatto medi anni fa. Ma quanti impianti hai? Tutti. Tutti cosa? Tutti i fissi io me li ho fatti. A uno a uno o la carta? A uno a uno. Ah. Ho pagato carino di soldi, ma io ti parlo, allora, 10, forse 20 anni fa. Infatti quando mi avevano dato il coso, no? Dall'Inps. Avevano dato 13.000 euro e l'ho fatto tutto, capito? C'erano quelli sopra che erano buoni, però ho preferito, mi ha detto, dice, guarda, dico, me ne fanno tutti, non mai che c'è. Allora li ho fatti tutti. Certo. Già va bene, dai. Mi sta raschiando un po', mi dà fastidio, capito? Sicuramente è sbeccato. Anch'io ne ho uno sbeccato, dei miei però, quelli di sotto. È l'incisivo, è sbeccato dietro, e poi infatti mi fa male. Secondo te 2 euro a pagisco io. No, cazzo, qua c'è dove uno deve essere sbeccato, ma cosa? No, è proprio filato, deve cambiare proprio, capito? Io, per carità, non basta nemmeno ti dirà, metto una mano e ti c'è all'axa. Per carità, ho fatto la revisione, 68 euro, poi arrivo su a pagare e mi fa 80 euro. Perché 80 euro? Perché devo fare la fattura per forza, se no non fa, noi siamo costretti a fare la fattura. Ho fatto pagare 10 euro in più, no, 12 euro in più. Fratello, mi ha dato, tipo Marina ha fatto la revisione, prima era 60, ha pagato quasi 80, però gli hanno dato uno a 10 euro di benzina, lì in viale sulla strada di Alghero, vattene a cuccia, Dea. E invece questo qua gli ho pagato 80 euro, con fattura non mi ha dato nulla, capito? L'ho fatta lì da Ereneo, se gli hanno fatto più non ti preoccupare, ha finito. E sarà che tutti invece. Dice quello, butto una volta, due volte, poi non tutti più me. E lui così automaticamente perde anche i clienti, capito? Beh, in definitiva sì. E lui ti deve pagare 80 euro, non gli regali niente, non dai nulla. Il cliente poi si informa, si fa il giro, sai com'è la clientela, lo sa fa, no. Guarda i primi. prezzi, va da quello lì che gli dà il regalo, gli dà il buono e ce ne va lì a fare la revisione. Accumula clienti e non piglia nulla. Certo, magna magna. In Italia non si può più vivere, è a morire qua. Come finisce a bizzarro? Tasse, mi contro tasse, luce, guido, per carità. Io mi sto facendo aggiornamenti del cellulare adesso. Quello l'ho sistemato io. Sta sempre funzionando benissimo comunque. Vabbè, gli aggiornamenti che devi fare lui. C'è un medico Mondetta, capito? Presto, buonasera. In Agnucci, buonasera. Ciao Gabi, buonasera. Scusa che ero distratto per il cellulare, stavo facendo un po' di pulizia qua. E c'è un gran casino. Buonasera Franco, niente, niente. Allora, buonasera Luca. Stasera Gabi non lo sento io. Come senti Luca? A me mi arriva Santiago Conobbe Luca. Boh, come mai non lo senti? No, non mi arriva Luca, non lo sento basso basso. Capi cosa ha combinato? Santiago Conobbe sì, ieri eri più forte. Senza niente. Con un vato abbassati a un vato e mezzo sono. Cosa vediamo? Ah, e allora è per quello. Sto scendo basso Luca. Ah, ecco, io. E allora capi che si dice? Dimmi che si dice. Che si dice? Poi di conclusione c'era in radio, io si vuole dare i capelli. Ce l'avevo io in macchina, stavo provando un lineareto. Io già ti sentivo, stavo facendo quello io qua, già ti sentivo. Sì, stavo provando un vecchio lineare che ho trovato nel cassetto, anni a epoca, un B150. Quelli sono dei cassi, lineari di cassa. Ma tu il 550 lo vedi? Se me l'avresti detto l'ho già venduto, guarda, l'ho dato 150 euro. Io te l'avrei preso quello lì. Te l'avrei preso io quello lì. Per 550. Perché non me l'hai detto l'altro giorno, ragazzi? Ce l'avevo uno, ragazzi. Se me lo dicevi te l'ho dato. L'ho venduto un tipo di tempio. 150 euro gliel'ho dato. Ma non me ne facevo niente, capì? Perché in macchina non lo potevo mettere, perché me ne buttava a terra la batteria. Io ho caputo, Io me l'avevo messo qua, in stazione fissa, attaccato a questo qua. L'ho abbassato un lato per quello, perché adesso te la trovo in aretto e glielo metto. Però la voce non ha alimentato le grosso, anche non preso uno da 50 ampere. E gli abbiamo messo lui. Porca miseria, anche in seconda marcia quello tira bene da stazione fissa, quello in seconda marcia da 100 watt e va bene. Sì, alimentatore, adesso con questo sto pilotando con un 32 ampere, però nella stazione là dove c'è il K lo sto pilotando con un 40 ampere ZG di vecchia era. E io, diciamo, per le HF ho un 8 60 e 40 nominali e può reggere anche picchi di 60, 57 e 60 ampere. Bel figurale, bello, grosso, con tutti i presentini. Ho capito qual è, sì, lo conosco, un bel alimentatore anche quello. Se me lo dicevi capi te l'avrei dato, va. Me lo dicevi, l'ho dato ieri proprio qua, quel lineare. L'ho dato a questo tipo di tempo, lo stava cercando, l'ho telefonato. È sceso, infatti, ci siamo trovati lì al Tane che gliel'ho venduto. Il 550 ZG. Sì. Porca miseria. E te lo volevo chiedere l'altra volta, te lo volevo chiedere, poi ho detto magari, cioè non mi permetto, magari non lo vendi, proprio di tutti i video, non sono dimenticato, porca miseria, che quello che avevo preso io, guarda, era tutto già qua a casa. Lo so, invece io stasera stavo regolato la stazionaria, ma l'ha sceso il rock, mentre in terra, e ho spaccato gli strumenti. E come hai fatto? Vabbè, come hai fatto? Un attimo, è un attimo. Io ho un Diamond, un ZG, un 1000, e poi è uno piccolino, ma è piccolo, è un 1000 da montare. Cioè voi era bello, mi è piaciuto un bel. Come ho fatto? Il cane, cioè il capo, stavo regolando le stazionarie e l'antenna, in campagna, passato il cane, ha tirato e me l'ha buttato lo strumento in terra, semplice. Vabbè. grande roba. Non lo vado in appunto, purtroppo magari è venuto anche a salutarsi, a fare la roba in terra. E la solita volte capita a me pure che facevo anche lavoro e tutta la roba in terra, però già qui fanno sono più paletti. E adesso me lo compro uno della Diamond, non so cosa costa, però me lo devo comprare. Vabbè, c'ho l'accordatore dell'FMG, però è troppo enorme, capito? Per portarlo in macchina, preferisco prenderne uno della Diamond, così lo utilizzo solo per fare quelle cose, tutto lì, capito? Sì. Diamond. Cosa ci vediamo di fondo? Adesso ci dico qual è il mio. Allora. Io ho l'SX100, questo qua è l'SX100. Certo, va, ho capito, perché poi hanno fatto l'SX200, mi sa che c'è anche il 500. No, questo qua è 3 kW. Questo qua tiene 3 kW. Sì, ha la scala da 30 a 300 a 30. Ho capito, allora è quello grosso, sì. Sì, è più o meno grande quanto una radio, più o meno grande quanto un supercar. No, ma è un apparato, è un buon strumento, questo è via, non c'è niente da fare. Poi avevo l'Oscar. Poi questo tipo di Oteo, il mio grande, e poi avevo anche il Daiwa. Era il Daiwa che c'è lui, ora il CN 901. Sono dei strumenti. Io ho l'FMG che fa accordatore error da 3 wattometro fino a 300. Sì, quello accorda anche bene. Adesso volevo prendere un accordatore d'antenna, solo accordatore di finito. Un accordatore finito. Adesso l'ho visto in internet l'altro giorno, è un accordatore, cioè si accorda anche la genetilare, capito? Senza bauli, capito? Accorda anche quello. Cos'è la T250 della Kim, o l'altro? O la T... adesso c'era il 250 e l'altro non mi ricordo qual era, se era la T130. Il 250 mi sembra che il 250. Quello accorda anche, ma l'ho amico io neanche lo conoscevo, ma l'ho amico io di questo qua, infatti dopo lo guardo nel computer, perché mi ricordo la sigla, però ce l'ho nella e quello è bello perché accorgi tutto, cioè fai 42, 43 metri di antenna filare, di fai dei spirali, dice per il tubo di arresto, che accorda a qualsiasi cosa. 40 metri, 50 metri, uno si campagna quasi 30 metri di confine, allora lui l'ha denigrare, forse non avere più va più di quello. Ce l'ho anche io la T250 a Kimwood, che praticamente è pilotato sul Kimwood 680, capito? Ce l'hai o ce l'avevi? Poi io ho la T250 e ho anche l'FMG, poi io ho tutta la linea del 680, la T250, MG60, il suo alimentatore, il PS53 e la colonnina, tutta la linea c'ho io del C80. E c'hai anche il C80. K di positivo, c'avevo anche il 440, ci ho avuto il 140, ho avuto il 450. E io ho il 450. Io il 450 in AM non mi piaceva niente. In banda laterale va bene, ma per la 27 in 11 metri no, non spingeva più il 440, la verità. Vabbè, no, vabbè, il 440 spinge, diciamo, un apparato totalmente diverso. Il 440 è un rimorchiatore, come il 540 è tutto quello. No, io quando mi senti bene sto quello, adesso facevo super tardi, però quando mi senti sono quello il 450. Io 450 ho anche un Nikon, l'IC7 e poi ho un ricevitore Nikon, l'IC7000, che fa la 25 in motivo, e niente, ma lo vedi con la cordata di qui, quella dalla linea verso 80? Oh, però non lo so, perché è tutta la linea completa questa. Forse guardate me la chiesta con la linea, no, non l'ho mai venduta, ce l'ho sempre io. Anche perché la T250 è un regalo che mi ha fatto una persona, non lo so nessuno. E allora, che fai bene, se è una cosa che ti è, fai bene a andare. No, vabbè, anche io non è che vendo, anch'io non è che vendo, io in genere compro e vendo poco, vendo tutto quello che mi interessa. Tutto quello che non mi interessa. Però se lo trovo lo prendo, perché più che altro da per sviluppare questo tipo di antenne, capito? Qua forse c'era una persona, non di qua di Sassari, un tipo di tempio, se ce l'ha ancora, capi, ti faccio sapere quanto lo vuole e vi mettete d'accordo, ok? Io sto niente più. Sì, certo, lo fai sapere, vediamo un po' più di te. Perché quello va bene anche per i 450, lui dice se non fai. Non lo so, No, bisogna che mi informo. Allora, non chiedere niente, che vi faccio una ricetta, e tu ce lo dici io magari quando mi dico, perché per chiedermi le cose e fare magari mettere su la gente, non sono va bene, chiediamo perché bisogna fare. E questo è, stavo dicendo, ma il 450 non ce l'ha incorporato l'accordatore automatico. Ma però posso entrare a giro? È un accordatore di linea, diciamo, là, quello lì è tutto diverso. Perché se tu lo guardi dietro, accorda anche, accorda anche altre cose, stanno anche nei filari, capito? Gianni, avanti, buonasera. Buonasera. Ho detto, fate già 50 break, non lasciate il bianco, te lo passa il gelato e non ci fa entrare. Sì, ti ho sentito sotto il fondo, che stava facendo? Stavo facendo già un piccolo discorsetto di roba di elettronica con Gavino, tutto qua. Sì, ti ascolto bene già comunque. Io stavo ascoltando, sono in cuffia, mi stavo ascoltando da poco fa, ma stavo facendo altro mentre vi ascoltavo, stavo mandando i saluti a tutti gli amici che la notte mi mandano i saluti, eccetera. Compreso te. Allora già, praticamente io ho fatto nella macchina, ho tolto l'antenna della radio, quella l'ho messa sotto il tettuccio, così com'era, e la basetta della frusta nera l'ho fissata alla cappotta, appunto di quella della radio. E ho visto che rende bene, va benissimo. Solo che secondo me ci sono un po' di stazionarie, perché io ho rotto il... me ne è sceso il rosmetro, il cane ha tirato il cavo e mi ha spaccato gli strumenti. E vabbè. Te l'ho detto, Fra, non c'è problema, se ne puoi misurare, ci vediamo domani sera, dopo pranzo, e lo facciamo. Porto il rosmetro e lo facciamo. Cava, ok, va bene. Comunque sta facendo bene, la platanona sta arrivando bene, no? Giglia, ma mi sa che è già regolata, mi sa che va già bene con l'antenna. Ma lo so già, perché io l'ho ritoccata, stavo regolando, perché io l'avevo tarata con te con la magnetica, ti ricordi? Giglia, con lo strumento mio l'abbiamo tarata. Era 1-1. Poi io la stavo regolando perché l'ho spostata di posizione, praticamente l'ho portata più indietro e magari mi stava segnando 1-2, 1-3 di stazionaria. Capito? Poi non l'ho regolata perché è passato il cane, ha tirato e me l'ha buttato il rosmetro in terra, si è spaccato, ci sono spaccati gli aghi, no gli aghi, praticamente quello lì c'hanno un bilanciere all'interno che io l'ho aperto ed è rotta proprio la spirale che c'è dentro. Quale Beggi? Eh? Quello con gli aghi incrociati? No, l'altro c'avevo, quello della della Midland, quello piccolo che faccio in accento qua. Ho capito, ciao Gambino, va. Ciao Gianni, buonasera. E allora? E allora mio, ho portato il cane, c'è nato, adesso sto facendo un pochettino e vediamo un po' se c'è qualcuno, io mi faccio quattro chiacchiere, perché stasera non si poteva entrare, c'era troppo casino. Ehi, caspita, non siamo mai contenti, quando non c'è nessuno ce la lamentiamo, quando c'è gente, insomma, ce la lamentiamo. Dai. È così, è così. E non vedi forse perché non ci siamo più abituati a questa storia qua di esserci persone. Però già bello, dai, già bello. No, io non sto dicendo perché ci sono tante persone, sto dicendo perché non veniva rispettato un passaggio tra un passaggio e l'altro, non si lasciava il bianco e si sovrammoduravano tutti, non si comprendeva nulla per quello, non perché ci sono tante persone. A me fa piacere che le persone ci siano, ma se non si è toccati modulando si fa un casino nero e si sovrammodula uno con l'altro. È vero, quello ti ho veramente ragione. Quello ti do pienamente ragione, ma vabbè, visto io non so, c'era casino, non sono entrato. Sono entrato all'ultimo, poi non faceva, quindi niente. E siamo entrati stasera, siamo entrati stanotte. No, perché pure quando vedi che non è vero, che non si rispetta una ruota, non fa entrare. No, perché poi si dimenticano le persone, quando succede così, uno si sovrammodula con l'altro. Oh, mamma mia, no, io ho detto che rimango in Corrix, poi sono andato a portare il cane. All'inizio si stava andando bene, poi hanno cominciato a entrare e fare casino. Vabbè, comunque, dai, anche io mi ci metto e... Io cerco sempre di fare il bianco, però qualche volta sbaglio anch'io, però se uno ti dice, io l'ho detto, cercate di lasciare il bianco tra un passaggio e l'altro, lo continuate, allora basta. Yes, è vero. E vabbè, dai, è giornata così, magari domani va meglio, ma domani va meglio, se coincide. Riprendi Franco, sì, se tu guardi dietro hai l'uscita anche per antenne filari in quella cordatura, capito? Sì, ci sono le spinette. Stavo dicendo già, praticamente Claudio mi ha detto che se mi stavo avvicinando a lui. Non ho capito. Claudio Di Muros mi ha detto se mi stavo avvicinando a lui in quelle zone. Io quando stavo parlando con lui ero da Graziella. Vabbè, stavo pilotando con lineare, comunque non ero liscio. Quanti watt? Non lo so quanti watt dà quel lineare che c'ho in macchina. Sarà 100 watt. Un'opera del genere, sì. È vecchiotto, Ehi, vabbè, interessante che funzioni. Tanto in macchina cosa devi fare? Non è che lo guardi in macchina, non vuole la base. Allora io già l'ho provato a pilotare con un'altra radio. No, c'è niente da fare, non spinge nulla. Con quella radietto che tu hai visto che c'è in macchina, ma quello va bene. Ci ho messo un altro baracchino e non funziona bene. In che senso ti fa uscire distorto? No, si mangia tutta la radio. Sicuramente quell'apparecchio che c'è in macchina dà 2 watt e quindi con 2 watt tu ne dai 100. La radio esce più forte, capito? Però pensandoci bene non è un 100 watt, perché tu hai detto che è in sesta marcia, quindi se ha 6 marce 2 più 2 fa 4. Fra, a me non mi butti. A te ne immagini che mi vuole fregare questo ragazzo? Uno che c'è 40 anni in frequenza. Vai, in sesta marcia, allora ti dico, in sesta marcia a 40, mi si giura. Franco, guarda che abbiamo avuto anche noi, ecco la roba lì, capito? Allora avevo un bias elettronica che faceva 11 e 45 litri. Allora questo binare qua dava, non aveva marcia, visto era sempre un folle, aveva una marcia, e faceva 11 e 45 metri, ripeto, e dava 120 watt, a Allora, io ho in macchina proprio sia quello che il D550 già